quando arrivati nelle vicinanze di Gerusalemme giunsero in vista di Betfage, alle falde del Monte Oliveto, Gesù mandò due discepoli, dicendo loro: «Andate nel villaggio che si trova davanti a voi, e subito troverete un'asina legata con il suo puledro. Scioglietela e portatela a me. Se qualcuno vi dice qualcosa, rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma subito li rimanderà». Questo è accaduto affinché si adempisse quanto fu annunciato dal profeta, che dice: «Dite alla figlia di Sion: ecco, il tuo re viene a te, mite, seduto su un'asina e su un puledro, figlio di bestia da soma». I discepoli andarono e fecero come aveva ordinato loro Gesù. Condussero quindi l'asina con il puledro, su cui posero le vesti, ed egli vi si pose a sedere. Ora la folla numerosissima stese le proprie vesti sulla strada, altri tagliavano rami dagli alberi e li spargevano lungo la via. La folla che andava innanzi e quella che veniva dietro gridavano: «Osanna al figlio di Davide! Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Osanna nel più alto dei cieli!» Quando egli entrò in Gerusalemme, si sconvolse tutta la città e ci si chiedeva: «Chi è costui?» Le folle rispondevano: «È il profeta Gesù, da Nazareth di Galilea». Entrato nel tempio, egli si mise a scacciare quanti in esso vendevano e compravano, rovesciando i banchi dei cambiavalute e le sedie dei venditori di colombe, e disse loro: «Sta scritto: la mia casa sarà chiamata casa di preghiera, voi invece ne fate una spelonca di ladroni». Vennero a lui nel tempio ciechi e storpi, ed egli li guarì tutti. Quando i sommi sacerdoti e gli scribi videro i prodigi che egli aveva compiuto e i fanciulli che gridavano nel tempio: «Osanna al figlio di Davide!», furono presi dall'ira e dissero a Gesù: «Senti quello che dicono costoro?» E Gesù a loro: «Sì, non avete mai letto? Dalla bocca di bimbi e di lattanti ti sei procurata una lode?» E lasciatili, se ne andò fuori della città, a Betania, e là trascorse la notte. Recandosi la mattina in città, ebbe fame. Vista sulla via una pianta di fico, si avvicinò ad essa, ma non vi trovò che foglie. Allora, rivolto ad essa, disse: «Non avvenga più che tu porti frutto in eterno». E all'istante il fico seccò. A tal vista i discepoli furono presi da meraviglia ed esclamarono: «Come mai il fico si è seccato all'istante?» Gesù rispose: «In verità vi dico, se avrete fede senza esitare, non soltanto potrete fare quello che è accaduto al fico, ma se direte a questo monte: levati e gettati nel mare, questo accadrà, e tutto quello che chiederete con fede nella preghiera l'otterrete». Entrato nel tempio, mentre insegnava, gli si avvicinarono i sommi sacerdoti e gli anziani del popolo e gli domandarono: «In virtù di quale potestà fai tu queste cose? Chi ti ha dato questo potere?» Gesù rispose loro: «Voglio farvi anch'io una domanda. Se voi risponderete ad essa, anch'io vi dirò in virtù di quale potestà faccio queste cose. Il battesimo di Giovanni da dove veniva? Dal cielo o dagli uomini?» Essi riflettevano, dicendo fra sé: «Se diciamo dal cielo, ci dirà: perché dunque non gli avete creduto? Se diciamo dagli uomini, c'è d'aver paura della folla, perché tutti ritengono Giovanni un profeta». Allora risposero a Gesù: «Non lo sappiamo». Anch'egli disse loro: «Neppure io vi dico in virtù di quale potestà faccio queste cose». Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Rivoltosi al primo, gli disse: «Figlio, va oggi a lavorare nella vigna». Questi rispose: «Vado, signore», ma non andò. Si rivolse quindi al secondo e gli disse la stessa cosa. Questi rispose: «Non ci vado», ma poi, pentitosi, andò. Chi dei due fece la volontà del padre? Rispondono: «L'ultimo». E Gesù a loro: «In verità vi dico, i pubblicani e le meretrici vi passano avanti nel regno di Dio. Infatti, è venuto a voi Giovanni nella via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani, invece, e le meretrici gli hanno creduto. Voi, pur vedendo, neppure dopo vi siete piegati a credere in lui. Ascoltate un'altra parabola. C'era una volta un padrone di casa che piantò una vigna, la circondò d'una siepe, vi scavò un pressoio, vi costruì una torre e, affidatala ai coloni, partì. Quando fu vicino il tempo dei frutti, inviò i suoi servi dai coloni per prendere la sua parte di proventi. Ma i coloni presero i servi e alcuni ne percossero, altri ne uccisero, altri ne lapidarono. Il padrone mandò ancora altri servi, più numerosi dei primi, ma quelli li trattarono allo stesso modo. Alla fine mandò il proprio figlio, pensando che avrebbero avuto riguardo di suo figlio. Ma i coloni, vedendolo, dissero fra sé: «È l'erede, orsù, uccidiamolo, così avremo la sua eredità». Lo presero dunque e, portatolo fuori della vigna, lo uccisero. Quando verrà il padrone della vigna, che cosa farà a quei coloni? Gli dicono: «Farà morire senza pietà quei malvagi e darà la vigna ad altri coloni, i quali gli renderanno i frutti a suo tempo». Dice loro Gesù: «Non avete mai letto nelle scritture? La pietra che rigettarono i costruttori è diventata pietra d'angolo. È una cosa fatta dal Signore ed è mirabile ai nostri occhi. Perciò vi dico, sarà tolto a voi il regno di Dio e sarà dato a un popolo che lo farà fruttificare. Se uno cadrà su questa pietra, perirà. Se essa cadrà su qualcuno, lo stritolerà». I sommi sacerdoti e i farisei, udendo le sue parabole, capirono che parlava di loro. Cercavano perciò di impadronirsi di lui, ma avevano paura della folla che lo riteneva un profeta.